chiesto il carcere per Pato, il brasiliano del Milan fidanzato con Barbara Berlusconi. L'ho capito subito che era di famiglia, ha commentato il suocero. Lo farò giocare nel San Vittore.